che inondano il mondo, flusso invisibile canto, segna le ore del tempo, una clessidra nel vento, la madre della terra è tutt'uno con la figlia, tutto l'universo gira attorno ad una stella, il cosmo vibra di divino, in ogni sguardo, in ogni destino, abbiamo tutti qualcosa da rendere, abbiamo tutti qualcosa per piangere, in ogni uomo vive una donna, in ogni donna vive una stella, che danza come una farfalla, seguendo i cicli di madre terra. In ogni uomo vive una donna, in ogni donna vive una stella. Navighiamo nello stesso mare, ed ogni goccia ingloba tutto il tuo amore. I numeri non contano nulla, l'uomo è acqua ma anche argilla, non si può contare il cielo, il mistero non è un mistero, la natura non ha sesso, la natura è un amplesso, tra la terra e l'universo, tra le stelle e ogni tuo passo, ogni tuo respiro è un cosmo, ogni gesto un tuo impulso, ogni favola ha la sua morale, dietro le quinte c'è più di un sole. In ogni uomo vive una donna, in ogni donna vive una stella, che danza come una farfalla, seguendo i cicli di madre terra. In ogni uomo vive una donna, in ogni donna vive una stella, navighiamo nello stesso mare, ed ogni goccia ingloba tutto il tuo amore. Non cercare mai una scusa, non nascondere la tua rosa, la tua mano è la tua casa, tu dell'amore sei la sposa, fioriranno anche sui campi, crolleranno tutti i fiori finti, sta arrivando a darci luce lo stagnaro della pace, resta in piedi con il tuo sguardo, guarda dentro, guarda il tuo mondo, non cercare più la sorgente, non ti servirà più a niente. In ogni uomo vive una donna, in ogni donna vive una stella, che danza come una farfalla, seguendo i cicli di madre terra. In ogni uomo vive una donna, in ogni donna vive una stella, navighiamo nello stesso mare, ed ogni goccia ingloberà tutto il tuo amore. In ogni uomo vive una donna, in ogni donna vive una stella. In ogni uomo vive una donna.